So, did you get the directions? You'll hear three statements, each followed by the question, È vero o falso? Is it true or false? If you think the statement is true, vero, say, it's true. È vero. But if you think the statement is false, falso, say, it's false. È falso. After you hear the correct answer, repeat it. Cominciamo. 1. Uscendo dall'albergo, gira a destra. È vero o falso? È falso. Uscendo dall'albergo, gira a sinistra. Due. Va dritto e prende la prima strada a destra. È vero o falso? È vero. Va dritto e prende la prima strada a destra. 3. Via dei Cimatori è la quarta a destra. È vero o falso? È falso. Via dei Cimatori è la quarta a sinistra. 4. Se ha avuto problemi con il test, If you had any problems with the test, ascolti di nuovo l'ultima sezione. Listen to the last section again. E ripeta il test. And repeat the test. Ma se non ha avuto problemi, But if you didn't have any problems, continui con la prossima sezione. Continue with the next section.